Na riale go pela luna di tagi singiwe le misangulana ruri tsane na riale go pela luna mabula e se ba sinye ba le fatse e misangulana na riale go pela luna di tagi singiwe misangulana ruri tsane e misangulana Maria Sina, Mulatulila, La Zalifati, Nio Salamani, Narivanarila, Lani, Nitopuli, Fati, Kimashamula, Museti, Richimani, Narivanatulu, Maria Sina, Mulatulila, La Zalifati, Nio Salamani, Yeah.